Immagino che sappiate tutti più o meno cosa sia una mazzetta. Oltre a fungere da titolo per un bellissimo romanzo di Attilio Veraldi del 1976, il sostantivo, che credo sia entrato in italiano dai dialetti meridionali, indica sull'autorità del devoto olio una fascetta di biglietti di banca dello stesso taglio, o per estensione una somma di denaro dato a qualcuno per corromperlo, o anche del denaro estorto o corrisposto per accordo doloso e immorale. Non c'è un vero motivo in realtà perché con un faccio di banconote tutte uguali non si possa pagare una prestazione assolutamente legittima, ma così vuole l'uso, e l'uso in linguistica è il solo sovrano. Ai suoi capricci si può anche ricondurre al fatto che quello che è in evidenza un diminutivo di mazzo abbia assunto in quell'occasione il genere femminile. Il mazzetto, nel parlare comune, è solo quello di fiori. E anzi, ho l'impressione che si tratti di un termine piuttosto obsoleto, inesorabilmente incalzato con me dal mazzolino. Tuttavia, viviamo in un paese libero e nulla ci viera di privilegiare sull'uso l'analogia, vedendo nella mazzetta al femminile un semplice diminutivo della mazza, senza indebiti cambi di genere. In effetti i vocabolari ne registrano l'uso, anche nel senso di bastoncino da passeggio, ammesso che ci sia ancora qualcuno che per passeggiare ha bisogno di un bastone, o come si diceva appunto una volta, una mazza, o in quello di piccolo martello dello spaccapietre, per non dire del martello usato dal capocordata nelle escursioni alpinistiche e altri usi ancora più specialistici, tutti impieghi specifici che testimoniano dell'inesausta vitalità dell'invenzione semantica, che passando da una metafora all'altra riesce a coprire con la stessa parola una serie di oggetti esperienziali piuttosto diversi. Liberi dunque gli specialisti del Comune di Milano di definire mazzette l'ultima trovata del vice sindaco decorato, come a dire gli sfollagenti di cui ci si propone di dotare gli agenti del civico corpo di polizia locale, quelli che una volta chiamavamo più classicamente vigili urbani. Che quegli strumenti siano delle mazze non c'è dubbio, e che vi si possano vedere come delle mazzette dipende dal fatto che sono più piccoli e leggeri di altri, per esempio di quelle in dotazione alla Polizia di Stato. Anche se un corpo contundente di plastica lungo 60 cm e dal peso di 480 grammi non sembra in definitiva particolarmente innocuo, specie se vibrato di buona lena, si può comprendere lo sforzo d'attenuazione compiuto dai pubblicisti municipali. È una semplice applicazione semantica della politica dei due fronti, quella per cui da un lato si dà soddisfazione a quanti chiedono alle forze dell'ordine una certa capacità muscolare e dotazioni adeguate, e dall'altro ci si prepara una via d'uscita in caso di proteste, negando alla propria parte ogni volgare propensione all'uso della forza. Chiamate sfollagenti o manganelli gli strumenti di cui abbiamo dotato i nostri cari vigili? Ma per carità, signori, sono mazzette, soltanto mazzette. Qualcuno tuttavia deve aver esagerato. In certi resoconti giornalistici di questi giorni, gli oggetti in questione sono diventati non che semplici mazzette, delle mazzette di segnalazione. E qui l'affare si complica. L'affare si complica non essendo chiarissimo che cosa possano segnalare, salvo forse l'opportunità di non avvicinarsi troppo a chi le impugna. Sarà per questo che negli stessi testi dei civici manganelli si parla con audace neologismo come di strumenti distanziometrici. Anche questa semanticamente è una forzatura, perché uno strumento distanziometrico a rigore dovrebbe servire a misurare le distanze, non semplicemente a tenere a distanza qualcuno, ma si sa, l'importante è capirsi, o anche non capirsi, nel senso che entrambe le definizioni, mazzette di segnalazione e strumenti distanziometrici, rientrano nella grande famiglia degli eufemismi, e di fronte agli eufemismi, si sa, vige la più ampia libertà di comportamento: chi vuole intendere, intende, e chi preferisce non capire o negare, nega e non capisce. E se qualcuno, nei suoi rapporti con la polizia municipale, si beccherà un colpo in testa, vorrà solo dire che non ha capito il segnale e si è trovato per accidente alla distanza sbagliata. Ancora una cosa, ai vigili, lasciatemi richiamare così, evidentemente quelle dotazioni non piacciono. Su istanza delle loro organizzazioni sindacali, i primi 200 esemplari distribuiti in occasione della fiera degli Obei Obei sono stati ritirati